Il Natale è l'unico momento dell'anno in cui ci si sente obbligati a pensare agli altri, ma in modo gradevole, perché sai che qualcuno sta già pensando a te. Ci sarà tanta ipocrisia dentro, forse, non lo so, però a me piace. In fondo l'ipocrisia è il sale della vita. Io sono qui, di Matteo Caccia. Sono le 4 e 7 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. E niente, anche quest'anno non ce l'hai fatta. Non sei riuscito ad evitarlo, oppure non sei riuscito a farlo, anche quest'anno. E quando arrivano gli ultimi giorni dell'anno, te ne rendi perfettamente conto. È quando ti trovi a fare una cosa che ti eri ripromesso di non fare mai più, che te ne accorgi. È solo incidentale il fatto che tu, per l'ennesima volta, abbia fatto la stessa fine. Che per l'ennesima volta tu non sia riuscito a non ritrovarti in mezzo al traffico del 23 di dicembre, cercando regali che non piaceranno alle persone che li riceveranno. Quello è solo un sintomo che ti fa riflettere su tutti i 12 mesi appena passati, su tutte le volte in cui, anche quest'anno, non sei riuscito a fare o a evitare qualcosa. Anche quest'anno non sei riuscito a prenderti un anno sabbatico, ad esempio. Anche quest'anno non hai trovato lavoro. Anche quest'anno non hai vinto al fantacalcio. Non sei riuscito a chiederle di sposarti. Non sei riuscito ad azzeccare i numeri del superenalotto, anche se ci hai speso più di 2000 euro. È un modo per ammettere una propria debolezza o una propria incapacità. È un pensiero che non è così piacevole da realizzare. E proprio per quello lo nascondi. E spunta solo quando non puoi più fare a meno di notarlo. Quando ti sembra di trovarti nella stessa insoffribile condizione di un anno fa, di 2 anni fa, di tutte le volte da che ti ricordi che ti sei trovato a comprare e impacchettare cose senza un criterio in un giorno di dicembre, mentre il traffico sembra quello del Cairo e il clima quello di Kiev. Forse allora devi fare in un altro modo. Forse allora non devi aspettare di ritrovartici in mezzo a quella cosa che ti eri ripromesso che non avresti mai più fatto, per pensare che sei un imbecille e che non riesci a tenere fede alle cose che avevi giurato non avresti ripetuto. Forse è meglio sfruttare questo momento qui per fermarti 5 minuti e pensare a tutte quelle cose che non sei riuscito ad impedirti di fare. Tutte quelle che appena le fai poi dici basta, giuro, non lo rifarò mai più. Salvo poi trovarti a ripetere la stessa frase più volte nello stesso anno. Ecco, quel momento è arrivato. Quel momento è adesso. Fate così. Tutti, prendetevi un attimo di tempo. Fermatevi dal fare quello che state facendo e pensate alle cose, a tutte le cose che anche quest'anno avete o non avete fatto e che vi ripromettete di non fare mai più. Il numero lo stesso è 800240024 per chiamare oppure per mandare un SMS 349-238-6666. Ce ne sono decine di cose che ognuno di noi fa e ha fatto anche quest'anno. Ve ne leggo alcune che sono arrivate sul profilo Facebook, che vi ricordo è cambiato ma è sempre quello, è Matteo Caccia, io sono qui. Cliccate su mi piace e siete i nostri. Emanuele: non sono riuscito a evitare di continuare a rinviare i progetti importanti di vita a favore di quel gusto un po' autolesionistico di sentirsi ancora libero di fare qualsiasi scelta. Simona: non sono riuscita a smettere di avere paura di sbagliare. Non sono riuscita a rileggere Delitto e Castigo, a fare un disegno al giorno, a iniziare lezioni di ballo, a dormire serenamente, a partire per New York. E questo, Simona, un pochettino ci dispiace, perché noi sappiamo che tu quel viaggio dovevi farlo. Chiara: non sono riuscita a smettere di dare consigli non richiesti, di provare ogni tanto un po' di invidia, di cedere alla mia tentazione più grande e comprare l'ennesima borsa o l'ennesimo paio di scarpe. Non sono riuscita a evitare di ingrassare di 2 chili e poi correre in piscina per riprenderne 3. Non sono riuscita a evitare di guardare per la 100.000.000ª volta La signora in giallo, quando in TV non c'era nient'altro, invece di rifugiarmi nella lettura di un bel libro. Non sono riuscita a evitare di iniziare a leggere 3 libri contemporaneamente. 800240024 349-238-6666. Se voi vi prendete 5 minuti, ce la fate. Fate un punto sulla situazione, sull'anno che è appena passato. Su tutte le cose che anche quest'anno, alla fine, non siete riusciti ad evitare di fare. Tipo tutte le domeniche a pranzo dai suoi di lei o dai suoi di lui, oppure di smetterla di giocare al fantacalcio, smetterla di buttare via soldi nei, come si chiamano, i poker, quelli del bar, il poker bar, come si chiama? Il video poker. Ok, ce l'ho fatta. Anche quest'anno non vi siete laureati, anche quest'anno avete preso 2 chili. Tutto quello che anche quest'anno avete fatto e vorreste evitare pensare di fare. 800240024 349-238-6666. Io prima di cominciare con il racconto di quello che io non sono riuscito a fare anche quest'anno, a evitare di fare anche quest'anno, vorrei oggi farvi sentire due regali che mi sono arrivati. Uno ve l'avevo già accennato ieri, è un pezzo musicale. In realtà non è solo un pezzo musicale, è una roba da ascoltare che per me è proprio goduriosa da sentire, che è un brano musicale montato sopra a un pezzo parlato di un film. Me l'ha regalato questo amico che ha fatto questo regalo a un gruppo di persone che gli sono care. Sono 20 canzoni, tra queste c'era questo pezzo qui. Vi consiglio una cosa, visto che è proprio una goduria per le orecchie, alzate un po' il volume della radio. Ho fatto un sogno che riguarda questo posto. All'inizio del sogno io sono qui dentro. Non è né giorno né notte. È tarda serata, diciamo. È tutto uguale qui dentro. A parte le luci. E io ho paura, una paura che non le dico. C'è un uomo nel cortile qui sul retro. È lui la causa di tutto. Io lo vedo attraverso il muro. Vedo la sua faccia. Spero di non dover mai vedere quella faccia. Un ringraziamento a Federico che mi ha fatto questo regalo che non riesco a smettere di ascoltare da due giorni. Quello che avete sentito è il brano parlato, è un pezzo di Mulholland Drive di David Lynch, in cui c'è quest'uomo che si trova in un bar e racconta di questo sogno che ha fatto, questa sorta di incubo. È il pezzo, come molte delle parti dei film di Lynch, è veramente un incubo. Invece il brano che state sentendo è un pezzo tratto dalla colonna sonora di The Social Network e lo trovate in quel film. Allora, quello che mi terrorizza di questo Natale è il rischio di ricevere come dono una busta che contenga una carta geografica che indica una foresta del Costa Rica oppure del Madagascar e una scritta, chiaramente su carta riciclata, tipo: quest'anno, con i soldi che avrei speso per farti un regalo, ho contribuito alla conservazione di una foresta in Argentina per un anno. Ecco, se mia sorella, invece che con una Lacoste, si presenta con un regalo così, io prendo il cappotto e me ne vado dal pranzo di Natale. Cioè, non è che abbia niente contro qualsiasi progetto di ecosostenibilità o le attività per la tutela dell'ambiente, però il Natale è un'altra cosa. Il Natale è pensare a chi vuoi bene, a cosa credi che gli farebbe piacere ricevere, non cosa farebbe piacere a te. Al di là di tutte le questioni religiose che non mi competono e sulle quali direi solo delle sciocchezze, il Natale alla fine è una bella festa che fa comunità. Le famiglie si riuniscono, i colleghi, come dicevamo ieri, vanno a cena insieme. I centri commerciali fatturano, i topi d'appartamento si organizzano, gli amici si scambiano sms, mail, telefonate. Il Natale è l'unico momento dell'anno in cui ci si sente obbligati a pensare agli altri. Però a farlo in modo gradevole, perché sai che qualcuno sta pensando a te, a cosa regalarti, a cosa dirti quando ti chiamerà sul cellulare, a cosa cucinarti quando ti inviterà a cena. Forse ci sarà tanta ipocrisia dentro, non lo so, però a me piace. In fondo, l'ipocrisia è un po' il sale della vita. Se dicessimo sempre tutto quello che pensiamo, se facessimo solo quello che ci passa per la testa, se non avessimo filtri, insomma, alla fine che vita sarebbe, no? Dove sarebbe il mistero? Sarebbe solo una giungla di insulti e di violenza. È giusto che facciamo i conti con il nostro essere bestie brutali tenute insieme da una serie di costrutti sociali che rendono la convivenza quasi possibile. Ecco, il Natale serve anche a questo. Sì, il Natale serve. Freud diceva che la cultura è un prodotto della sublimazione, cosa che a grandi linee, me lo sono fatto spiegare prima da Tiziano Bonini, significa che se il lupo prende il tè con le pecorelle, non è che non pensa che se le mangerebbe a colazione, pranzo e cena, ma si vanterà bene i biscotti, perché poi, in un modo che ancora non sa, ne avrà un vantaggio. Non ci ho capito molto, ma mi piace l'idea. Detto questo, però, è anche vero che a me andare per regali sembra veramente una tortura. Cosa prendere a mio padre, cosa piacerebbe a mia madre, io questo non l'ho mai saputo. E anche quest'anno io vado a caso. Anche quest'anno io improvviso. I spent the night. by your side. Since then it's me and you. But age came and took the red beard that I knew. But that's okay, in here today, the gray it suits you too. Io sì, vorrei essere uno che si organizza. Che metodicamente si organizza per le feste comandate o per i compleanni. Munendosi per tempo di presenti, di pensierini, sapendo sempre con quali oggetti fare bella figura e quali bottiglie portare a una celebrazione. Ma non è così, io sono quello che fa la spesa scegliendo solo i prodotti in offerta. Sono quello che una volta, sì, una volta sola, ma vi assicuro che in certi casi una volta è sufficiente, una volta si è dimenticato del compleanno della propria fidanzata. E allora quando arriva la prima della scala, io so che devo fare l'albero e pensare ai regali di Natale. Non è difficile da capire, no? Io sono quello che ci pensa da Sant'Ambrogio, ma che si riduce a girare i negozi come un disperato il pomeriggio del 24, ovviamente, sgomitando tra persone che litigano per l'ultimo angioletto della Thun, arrivando a considerare un hard disk esterno da 1 terabyte come una buona possibilità per un bambino di 3 anni. Sudando freddo al pensiero di non chiudere la piccola lista che mi porto sempre in tasca e trovando sollievo solo nel pensare che comunque, alla fine, esistono i libri. Quegli oggetti di carta che possono contenere le barzellette di Totti o le solite, tristi, vicende di Anna Karenina. Ma in una nuova traduzione, però. Sono la salvezza di coloro i quali non hanno pensato per tempo all'arrivo del ciclone natalizio. Io invidio con tutte le mie forze chi a settembre programma di regalare ai propri genitori tipo una biografia personalizzata fatta su misura per loro da uno scrittore. Oppure un pacchetto vacanze per un viaggio che non si sarebbero mai permessi. O un maglione fatto confezionare apposta da un artigiano nepalese. È solo che io non sono così. Io arrivo talmente in ritardo con le cose che finisco per odiare il Natale con tutte le mie forze. Comprendo l'assurdità del consumismo, mi indigno per i soldi gettati al vento, mi arrabbio per le convenzioni sociali di cui diventiamo schiavi, mi si scatenano delle furie omicide, ma poi, a un certo punto, mi passa tutto. Perché trovo il pensierino giusto per mia sorella, che lo so che non le cambia la vita, e che lo so che mi vuole bene anche se non le regalo nulla, che lo so che è tutta una scusa, però quando la immagino sorridere mentre lo scarta, rende la mia vita un po' più bella. Anzi, rende la mia vita una vita vera. E poi i regali di Natale in fondo sono la memoria di quelli che portarono i Re Magi 2000 anni fa, no? Quindi è un bel gesto da ricordare. E ogni persona può essere il messia dell'altro, se gli vuole bene. Ognuno, a volte senza saperlo, può essere il salvatore del suo prossimo. Perché non lo lascia solo. Perché c'è. Perfino perché gli fa un dono. Sì. E allora viva Natale. E sai perché? Perché puoi mangiare come un maiale. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Talking about a revolution. 800240024 349 238 6666. Anche quest'anno non siete riusciti a fare qualcosa. Anche quest'anno avete dovuto ripetere all'infinito le stesse cose. Anche quest'anno, mi scrive Zula, non sono riuscita ad evitare di laurearmi e adesso mi trovo a vivere nella mia città natale senza PDS. Prospettive. PDS cosa vuol dire? Ragazzi, potete scrivermi in italiano senza gli acronimi, senza PDS, senza prospettive del futuro, non lo so. Anche quest'anno la saluterò come negli ultimi 3 anni a Natale e rivedrò nei suoi occhi il sogno di una vita insieme che non ha voluto. Anche quest'anno avrò la stessa domanda che non riuscirò a farle. Spero che passi. Auguri a tutti coloro che come me sono in coda verso Fano. Da come era partito credevo ci fosse qualcosa di poetico, e invece no. Auguri a tutti quelli che sono in coda verso Fano. Ma sì, ci sarà un sacco di gente. Anche quest'anno non sono riuscita a smettere di fumare. Anche quest'anno, Teresa. Anche quest'anno e per tutti gli anni a seguire migliaia di persone non smettono di farsi, di giocarsi gli stipendi, di stuprare, di uccidere, di essere umane, quindi facile le dipendenze. Sì, va bene, però anche qualcosa di meno, eh. Anche quest'anno non sono riuscito a fare qualcosa. Prima è arrivato questo messaggio su Facebook: anche quest'anno ho provato a leggere un libro di Alberoni, ma alla decima pagina ho desistito. Ora, Massimo, ma la domanda è proprio banale, ma perché? Cioè, te lo dice uno che ha dovuto farlo anni fa, ma solo perché c'è stato obbligato a farlo, con una sorta di pistola puntata alla tempia. Anche quest'anno non sono riuscito ad evitare di andare a Venezia con l'acqua alta, più alta di tutto l'anno, di portare mio figlio in pronto soccorso. Anche quest'anno non sono riuscito di vedere i Wonder Pets la mattina prima di colazione, che non so cosa voglia dire, però mi fa molto ridere. 800240024 349-238-6666. Non si tratta di buoni propositi per il futuro, si tratta solo di star lì e provare a capire che cosa anche quest'anno avete fatto o non avete fatto. Invece era arrivato il momento di farvi sentire il secondo regalo che ho ricevuto in questi giorni. Il primo era il pezzo, tra l'altro Simone da Ravenna mi scrive, il pezzo è Hall of the Mountain King di... sì, il pezzo è, diciamo, è una rivisitazione di quel pezzo lì, comunque è tratto da quella roba lì. La prima cosa ve l'ho fatta sentire, il primo regalo. Il secondo regalo invece è un racconto e fa così. Sono appollaiato su questo vecchio castano periferico da qualche giorno. Il quartiere è triste. La gente grigia cammina con la testa bassa e per lo più di fretta. È un posto di passaggio. Pochi colori, poca fantasia, nessuna novità. E di lui neanche una traccia. Ma quello che non succede qui in un attimo accade. E dalle finestre un po' di luce. Finalmente qualcosa si muove. La sua camera vista da quassù non è un granché. Un metro e mezzo di mattonelle, qualche vecchia cassetta e una montagnola di magliette stropicciate come i suoi occhi, vicino al letto. Quelle le sceglie colorate, sempre, nonostante i suoi occhi a fatica riconoscano i contorni degli oggetti che lo circondano. Lo chiamano Mosca, forse per via di quegli occhiali neri e pesanti che non lasciano mai il suo viso, o forse perché sa muoversi leggero e arrivare in silenzio chissà poi perché nel cuore delle persone. Io e Mosca siamo diversi, questo è evidente. L'unica cosa che ci accomuna è l'età. Siamo stati vicini per un breve momento, un paio di mesi fa. Da allora lo seguo ovunque, invano. Capire come un uomo dall'aspetto mediocre, con una vita mediocre, abbia negli occhi, nelle mani, una tale forza, è diventata la mia ossessione. Avrei potuto avvicinarmi, certo, tentare un approccio normale. In fondo nessuno è riuscito mai a resistere al mio fascino. Ma il mio orgoglio mi avrebbe frenato. E così sono qui. E quello che ho davanti agli occhi ancora non mi soddisfa. Da dietro alla finestra lo vedo allungare la mano davanti a sé, con un gesto premere il bottone dello schermo, togliere lo zaino pesante dalle spalle e riposare. Qualcosa nella testa mi dice muoviti, dai, sei venuto qui, allora sbrigati. La porta celeste fa da contrasto con lo squallore del palazzo, con la scritta rosa oggetti smarriti. Da buon viaggiatore avevo raccolto ciò che altri nella fretta avevano buttato via. E ritorno volamente a quel giorno di giugno. Oltre alla sua voce anche le panchine del viale urlavano d'amore. La fretta e un mezzo sogno di gloria portano i miei 20 anni un passo un po' più in là. Da sotto le sue lenti Mosca non parla. Il suo essere remissivo percuote i miei nervi e le risposte che avrei voluto rimbombano afone nel suo silenzio. Mi sveglio. È l'alba. Caffè e sigaretta, intorno a me il vuoto. Una mosca svolazza sulle mie lenzuola. Sul comodino un quaderno sconosciuto. Lo apro. Lo sfoglio. Sogno 51. Ogni tanto me ne arrivano di racconti come questo e questi penso che siano davvero un bel regalo. Ringrazio Noemi per averlo scritto e per averlo mandato. Ringrazio tutti quelli che, dopo la borsa, sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo a bordo di una moto. Sembra quasi un fotomontaggio, ma credo che non lo sia. O forse sì. Sai che la guardo bene adesso e forse... Ma valgono i fotomontaggi da spedire? Vabbè, ce li facciamo. Sì, giusto, c'è un fotomontaggio che ci perseguita di cui vi parlerò con calma. Si trova su Facebook. Comunque, parliamo di questa foto. Siamo a bordo di una moto che, anche se è un fotomontaggio, si trova in cima a una collina. Si vede giusto il manubrio della moto. Il manubrio e il contachilometri. È una moto di quelle... come si chiamano? Custom, direi. No, custom non vuol dire niente. Tipo Harley Davidson. mi verrà il termine, che però è modernissima perché ha tutte le cose digitali ed è tutta cromata ovviamente, come tutte quelle moto lì. E di fronte a lei e di fronte a noi c'è un paesaggio collinare che potrebbe essere ovunque in Italia, potrebbe essere qualcosa tipo gli Appennini forse, la Toscana, l'Umbria, quei posti italiani tutti belli. È verde, quindi probabilmente è primavera o inizio autunno, ci sono poche case sparse, ma se è un fotomontaggio... Emiliano Sabatini, 37 anni. In questa foto mi trovo sulla cima di Monte Razzano insieme alla mia moto. Domino la valle di Baccano a nord di Roma. Mi sento libero. Io sono qui. Però non abbiamo capito se... A nord di Roma. Però non abbiamo capito se è un fotomontaggio, se la moto è suo. Sono arrivati un bel po' di anche quest'anno. Ve ne leggo in fila perché sono divertenti. Anche quest'anno faccio il solito lavoro noioso e non ho il coraggio di esprimere i miei sentimenti ad un'amica. So la sua risposta e non voglio sentirla. Va bello. Consiglio musicale, Tiziano, qua c'è un consiglio per te. Consiglio musicale, Don't Shoot Me Santa dei Killers. Francesco, ce l'abbiamo già in... No. Anche quest'anno non ho perso quei fottuti 8 kg che mi separano da un peso decente, Lorenzo di Cesena. Anche quest'anno non sono riuscito a passeggiare da un capo all'altro della prospettiva Agneschi. Anche quest'anno non sono riuscito ad amare mia moglie e ci siamo lasciati. Anche quest'anno non smetterò mai di pensare che potrei fare di più. Questo è il mio dramma, ma anche la mia forza. Anche quest'anno non sono riuscita ad evitare mia suocera. 800240024 349-238-6666. C'è però una piccola ossessione che mi perseguita e di cui ormai vi rendo partecipi ogni volta che mi capita di parlarne, che riguarda uno scrittore che non riesco a smettere di leggere. Si chiama David Foster Wallace. Alcune delle cose più interessanti che ha scritto facevano parte di una piccola raccolta che si chiamava, che è stata chiamata non da lui ma da altri, Cose divertenti che non farò mai più, che mi riprometto di non fare, come dire, appunto, anche quest'anno le ho fatte ma mi riprometto di non farle. La prima era un viaggio su una crociera, la seconda invece è stato quando una rivista dell'East Coast l'ha spedito a seguire una fiera di carne nel centro degli Stati Uniti, credo che fosse l'Illinois. È tratto da un libro che si chiama Tennis TV, Trigonometria, Tornado e altre cose divertenti che non farò mai più, e questo capitolo si chiama Invadenti Evasioni. Sono qui da poco, vengo dall'East Coast e vado alla fiera statale dell'Illinois per conto di una rivista fighetta dell'East Coast. L'esatto motivo per cui una rivista fighetta dell'East Coast sia interessata alla fiera statale dell'Illinois mi rimane oscuro. Il mio sospetto è che di quando in quando un direttore di riviste del genere si dia uno schiaffo sulla fronte e si ricordi che circa il 90% degli Stati Uniti giace fra una costa e l'altra. E così gli viene l'idea di mandare qualcuno con un bel casco coloniale a fare un reportage antropologico su qualcosa di rurale e di entroterreno. Penso che stavolta abbiano scelto me perché in effetti sono cresciuto da queste parti, 2 ore di macchina a nord di Springfield. Crescendo però non sono mai stato alla fiera statale. Mi sono belle fermato a livello di fiera di contea. Se non l'avete mai letto, se non l'avete mai regalato, regalate un libro di David Foster Wallace. Qualcosa ne verrà fuori di sicuro. Noi drammaticamente l'abbiamo fatto, mi ricorda Tiziano Bonini, perché è giusto ricordare che oggi non è solo un giorno che si avvicina al Natale, ma è l'ultimo giorno che abbiamo qui con noi Vittorio Mussini, che passerà a miglior vita andando a fare altro probabilmente. E io e Tiziano Bonini, senza dircelo, abbiamo deciso di regalarle Tu pensa, un libro, Tu pensa, di David Foster Wallace, fortunatamente non lo stesso, e via di fantasia. 800240024 349-238-6666. Andiamo subito a Pisa da Federico. Pronto Federico? Sì, ciao Matteo. Ciao. Ci sentiamo dopo la volta della casa che andavo a cercare. Oh, ma certo Federico, come dimenticarti. Tu che cosa non sei riuscito a fare anche quest'anno? Rimettermi a dieta per l'ennesima volta. Quanto pesi? Ma è supero i 100 ormai. E quanto sei alto? 1,85. Quindi quanti dovresti perderne? Ma è una decina che dovrei perdere. Il problema è che riperdo, cioè all'inizio faccio la dieta, riperdo e poi riguadagno tutti. Certo. Questo è il mio problema, quindi... Perché come dice Nicoletta Carbone di Essere Benessere, bisogna perderli gradualmente, altrimenti poi te li riprendi tutti. Federico, ciao, auguri, grazie. Ciao, grazie anche a te. Ciao, andiamo da Vera a Trento. Pronto Vera? Pronto. Ciao, dove sei? Sei in un frullatore? No, sono in macchina. Sei in macchina, ma sei ferma? Sì, conferma, mio fratello sta guidando. Brava Fera, che cosa anche quest'anno non sei riuscita a fare? Niente, io sono ossessionata da Facebook, ma proprio in modo malato, insomma. Sei ossessionata da Facebook? Sì, cioè sto troppo, cioè quest'anno gli esami non so come mi sono andati perché stavo troppo su Facebook. Quanti anni hai, Vera? 20. Ma tu hai un accento non solo italiano? No, cioè abito all'estero, però sono italiana. Dove abiti? A New York. Ah, ok, cosa fai a New York? Studio, vado alla NYU. Alla New York University. Sì, New York University. Perdonaci, sai, siamo in Italia, sì, no, quindi abbiamo bisogno di tradurre. E quindi anche a New York si sta ora su Facebook? No, lì ancora di più, cioè lì veramente tutti, è una cosa pazzesca. Poi col BlackBerry siamo connessi su Facebook, eccetera, ma tutto il tempo. Senti, Vera, tu sei di Trento o stai passando dalle parti di Trento? No, sono di Trento. Sei proprio di Trento. E perché una ragazza di 20 anni va a studiare alla NYU, come dici tu? Perché, non lo so, ho sempre fatto comunque scuole internazionali. Okay. Siamo su di classe sociale, Vera, di la verità. Siamo di famiglia un po' ricca. Cosa fanno il papà e la mamma? Mio padre è diplomatico. Come? È diplomatico. Mio diplomatico, padre. Perfetto. Ci spostiamo sempre. Perfetto. Vera, grazie mille. Grazie. E buon anno. Ciao. Anche a te. Benissimo, quindi il consiglio è, se avete un papà diplomatico come Vera, tutti alla NYU. E invece andiamo subito a sentire Paola, che ci ha scritto questa SMS. Sarà banale, ma anche quest'anno non sono riuscita ad essere puntuale. Pronto Paola? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Io adesso sto bene. Dove ti trovi Paola? Io mi trovo, in che senso? Nel luogo o la città? Non lo so, fa differenza. Dimmi in che luogo di quale città. Allora, sono in una camera da letto in una città che si chiama Penne, in provincia di Pescara, in Abruzzo. Perfetto. Senti, tu quanti anni hai, Paola? Quanti te ne dai? Te ne do 42. Va bene, aggiudicato. Quindi è una cosa che ti porti dietro da tanto tempo, quella del... Sì, guarda, i miei proponimenti a Capodanno, quando esce il tappo dello spumante, mi ripropongo sempre di dire quest'anno sarò puntuale. Va bene. Paola, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto, buon anno. Un augurio carissimo a te, alla redazione e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille, ciao Paola, buona giornata. Anche quest'anno non sono riuscita a fare un viaggio, pazienza. Anche quest'anno ho mandato all'aria 2 matrimoni. No beh, questo spero non sia anche quest'anno. Cioè, ho mandato all'aria 2 matrimoni nonostante i miei 57 anni. Continuo a fare cazzate non riuscendo a regolare la mia vita. Anche quest'anno non sono cambiata e ho creduto nel cambiamento degli altri, illudendomi. Anche quest'anno sono cresciuto un po' con fatica e con gioia. Buone feste, andiamo da Laura. Pronto Laura? Buonasera. Buonasera, come stai Laura? Sono un po' emozionata. Lo sento che sei un po' emozionata. Da dove chiami? Roma. Da Roma, perfetto. Laura, tu cosa fai nella vita? Sono impiegata, programmatrice. Di che cosa? PLSQL. Ah, database. Perfetto, esattamente quello che stavo immaginando. PSLQL. Senti Laura, tu così. Anche quest'anno che cosa sei o non sei riuscita a fare? Purtroppo il mio ennesimo contratto a progetto... E questa è la vita, insomma. Quanti ne hai avuti in questi anni? Guarda, sono forse al settimo in 4 anni. Ma perché poi te li spezzettano. Ma è possibile fare, scusa, dopo un tot di contratti a progetto non bisogna chiudere e assumere, no? C'è l'infinito nei contratti a progetto in questo paese. Quanti anni hai, Laura? 34. 34. E sei hai detto settimo contratto a progetto? Settimo, presso a poco. Tra l'altro ho appena avuto una gran bella notizia, ma ho il terrore di dirlo. Ma tu dillo. Per le conseguenze. Tu dillo a me, Laura. Ho appena scoperto che aspetto un bambino. Benissimo. Quindi, e quindi avendo un contratto a progetto ti sei segata le gambe da sola. Perfetto. Precisamente. Laura, però la vita va avanti, bisogna fare. Laura, quando nasce? Io penso ad agosto perché l'ho appena scoperto. Guarda, siamo con te. Allora, anche quest'anno sono rimasta incinta. Ciao Laura, grazie, auguri per tutto. Ciao, le ultime telefonate al volo. Christian, pronto? Pronto. Ciao Christian. Mi senti tutto bene? Io ti sento tutto bene. Dimmi subito, anche quest'anno? Anche quest'anno non sono riuscito a essere meno ambizioso. Cosa hai fatto? Ma io in un anno ho cambiato 3 case, ho cambiato 2 convivenze. 2 lavori. Che lavoro fai adesso? In questo momento io vendo pomodoro. Vendi pomodoro? Pomodoro, concentrato di pomodoro, tutto per l'industria. E come si chiama la tua fidanzata attuale? La fidanzata si chiama Elisabetta. Benissimo. L'ho conosciuta dopo due settimane, siamo andati a convivere, perché secondo me in questi casi bisogna subito fare il crash test veloce. Va bene, Cristian. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Saluto, ciao. Ciao, auguri. Grazie a lui, grazie soprattutto però a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bonini e a Paolino Corleoni. Ma grazie soprattutto di cuore per tutto e per essere stata con noi anche quest'anno a Vittoria Mussini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?